così finiti sempre a scivolo. Nonostante te e le paure tue, i consigli di tua mamma e le gelosie, e malgrado tu voglia divorarmi ogni giorno, nonostante io fugga e sempre torno, sempre anche perché il tempo tuo è anche mio.